È ora di aggiornare i tuoi strumenti di lavoro. Scopri Plus Plus 24 Diritto, l'upgrade dell'avvocato, su plusplus24diritto.com. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. No, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. I film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè, per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due. Sei nudezzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così, quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi, quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of, that's the glory of love. Bentrovati da Valentina Furlanetto a questa nuova puntata di Indovina chi viene a cena. Ancora una volta introdotti nella nostra sigla dalla musica di questo film degli anni 60 da cui prendiamo spunto, il mitico Indovina chi viene a cena, che trattava i temi nell'America degli anni 60 dell'integrazione razziale. Ma da quest'anno, ormai lo sapete, abbiamo introdotto anche dei sonori tratti da film un po' più recenti che si occupano di questo, dell'identità, del razzismo, delle culture che vengono modificate anche dalla presenza di persone straniere nel nostro paese, tratte appunto da pellicole cinematografiche, ma anche, come avete sentito, dalla serie televisiva come I Soprano e da qualche inserto spiritoso per rendere un po' più vivace la nostra trasmissione. Questa sera, visto che fra pochissimi giorni ricade l'anniversario, il terribile anniversario della strage a Parigi, abbiamo voluto chiamare un ospite, una gradita ospite, una studentessa, una scrittrice che quando erano avvenuti quei fatti prese le distanze chiaramente da tutto il fondamentalismo islamico, nonostante lei sia una persona profondamente religiosa di origini marocchine in Italia da molti anni. Sto parlando e do il benvenuto a Sheymeh Fatih. Grazie mille, buonasera. Sheymeh Fatih ha scritto un libro per Rizzoli, Non ci avrete mai, una lettera aperta di una musulmana italiana ai terroristi. Un libro che fece molto parlare, discutere, perché appunto mandava un messaggio forte sul ruolo femminile nel mondo islamico e sulla necessità di preservare la religiosità di certe culture arabe, nonostante un tentativo di appropriazione dell'Islam da parte dei terroristi. È così, Sheymeh? Era questo che lei voleva fare scrivendo la lettera e poi il libro? Sì, è stato proprio questo. Oltretutto ho voluto anche in qualche modo raccontare quello che è un mondo spesso mal conosciuto, comunque sconosciuto, e soprattutto anche sradicare quelli che sono i pregiudizi che si hanno su questo mondo, soprattutto quando si tratta di giovani che sono appunto hanno origini differenti, ma che sono parte integrante del nostro paese. Thank you. siccome questa è un invito a cena, anche se è una cena, come sappiamo, molto tarda, so che Sheimè ci ha portato qualcosa, magari qualcosa relativo, non so, al suo paese d'origine, il Marocco? Io in realtà ho portato un piatto di pizza, però accompagnato con un tè alla menta marocchino. Mi sembra un bel mix, no? Che racconta qualcosa di lei. Esatto. Perché lei è italiana, nata da genitori marocchini, vissuta in Marocco fino, se non sbaglio, ai 6 anni, giusto? Esattamente, sì. E poi si è trasferita in Italia. Dove e perché? Sì. Allora, mi sono trasferita all'età appunto di 6 anni a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, per diciamo raggiungere mio papà insieme a mia mamma, che era qui appunto già da tempo per diciamo ritentare una vita anche a livello economico più dignitosa e soprattutto per permettere in particolar modo a me di avere un futuro diciamo più sicuro e che possa in qualche modo darmi delle opportunità migliori. Studio giurisprudenza, sono al terzo anno. Ho scelto di percorrere questo studio del diritto proprio perché sono follemente innamorata della nostra Costituzione e credo che sia una delle più belle. Diciamo che l'ambito dei diritti, specialmente dei diritti umani, è un ambito che mi ha sempre affascinato grazie anche ai racconti di mio padre e soprattutto a quello che poi ho visto in altri paesi dove alcune libertà che oggi noi abbiamo per noi sono scontate, in altre parti del mondo non lo sono affatto. Suo padre è laureato in giurisprudenza? Sì, esatto, sì. I suoi genitori si sono adattati nella nuova vita in Italia a fare altri lavori, l'hanno cresciuta in Italia e lei, leggevo, si sente italiana? Sì, mi sento proprio italiana e preservando quelle che poi sono le mie origini marocchine di cui vado molto fiera perché credo che un'identità plurale significhi anche lavorare molto su se stessi e con il tempo ho avuto modo di conoscere maggiormente quello che è il mio paese di origine perché ovviamente quando sono arrivata a 6 anni ho dei ricordi molto soffusi, non particolarmente chiari, dettagliati. Quindi possono convivere queste due identità? Credo che non ci sia alcuna diciamo difficoltà in questo, probabilmente le difficoltà, e questo è indispensabile, sorgono quando si è giovani, quando soprattutto non si sa bene nemmeno chi è. Diciamo che già l'ambito dell'adolescenza è difficile per chiunque, per i nostri coetanei diciamo autoctoni, ma anche per chi vive comunque in un'identità per cui si deve fare molte più domande. E soprattutto quando poi subentra la fede, quindi una fede spirituale, religiosa, sicuramente aiuta anche maggiormente a delineare quello che è poi il proprio percorso, sia come cittadini, sia come fedeli. Lei fa parte anche dell'Associazione Giovani Musulmani d'Italia, no? È delegata nazionale, se non sbaglio. Esatto. Sì. Che tipo di ponte fra la cultura italiana e i giovani musulmani di seconda generazione, come noi diciamo, no? Gli stranieri di seconda generazione, che tipo di ponte ci può essere? Allora, innanzitutto appunto nessuno è straniero di seconda generazione proprio perché la stragrande maggioranza o è nata in Italia o è arrivata sin da piccolissima in Italia, quindi cittadina italiana in tutto e per tutto. È ponte perché sicuramente riesce a comprendere quello che è all'interno della comunità musulmana, quindi dà degli occhi interni alla comunità e al contempo riesce a in qualche modo decifrare quelle che sono le priorità all'interno del nostro paese a livello politico, civile e quant'altro. E quello che si fa anche come giovani musulmani in Italia è anche proprio quello di permettere a dei ragazzi, soprattutto in età adolescenziale, di proprio conciliare quello che è l'identità plurale, cercare di essere non solo ponte culturale tra la prima generazione e i concittadini e le concittadine italiane, ma anche quello di in qualche modo cercare di essere diciamo dei cittadini bravi che possono in qualche modo risollevare quello che è il nostro paese, servire il nostro paese come tutti gli altri in maniera civile e assolutamente positiva. Ci fermiamo brevemente e torniamo a parlare di tutto questo tra pochissimo. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta, tempo scaduto. Tempo scaduto! Datemi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera siamo con una giovane italiana di origini marocchine, una studentessa, una scrittrice di religione musulmana. Sto parlando di Shaymeh Fatti, che ha pubblicato per Rizzoli Non ci avrete mai, un libro in cui rivendica il fatto di essere musulmana e allo stesso tempo, proprio in nome dell'Islam, una presa di distanza forte nei confronti dei terroristi. Shaymeh, come è nata l'idea di questo libro all'indomani della strage del Bataclan? Sì, allora innanzitutto dopo aver scritto appunto la lettera, che è stata una lettera che ho scritto molto di getto appunto subito dopo i fatti e che è stata il giorno dopo pubblicata dalla Repubblica e poi da altre testate nazionali e locali. Ho avuto un contatto, quella che insomma è stata la mia editor mi ha contattato per tentare di raccontare anche quello che è la mia posizione in maniera più dettagliata. Ho colto questa opportunità perché credo che con questo libro si riesca non a parlare tanto di Shaymeh Fatti, ma a parlare di questo mondo che appunto cerco in qualche modo di rappresentare e a cui dare voce, perché spesso sento dire: ma voi della comunità musulmana non vi fate sentire abbastanza. Il problema è che non è così, il fatto è che in realtà le attività sono tantissime, le iniziative anche, e forse quello che è il problema è che la voce non arriva. E allora nel momento in cui ho avuto l'opportunità di dire al mondo quello che è la nostra posizione, ho voluto in qualche modo ampliare questo concetto e raccontare la mia vita, che è la vita di tanti altri giovani musulmani e musulmane italiani e italiane nel nostro paese. E lei parla anche nel libro del ruolo della donna, rivendica la libertà di indossare il velo che lei usa, no? Sì, esattamente. È un'indicazione che vi viene data però dalla religione. Molto spesso nella società occidentale viene vissuta come un'imposizione dalla religione e dagli uomini. Il velo quello è uno strumento di adorazione di Dio, quindi uno strumento religioso, per cui è una delle tante maniere appunto per adorare Dio. Sicuramente ci possono essere dei casi in cui l'imposizione da parte anche di uomini ci sia nel mondo, sia nel nostro paese, ma la stragrande maggioranza, soprattutto nel nostro paese e in Europa, delle donne lo porta in maniera assolutamente consapevole e libera. E questo proprio perché siamo in paesi dove la libertà è appunto uno dei valori, dei principi più saldi che abbiamo. E la donna deve essere libera di scegliere per se stessa quello che più vuole, di cui è più consapevole, senza che ci sia nessuno che possa inficiare in qualche modo questa libertà. In generale si parla tanto delle donne, ma veramente abbiamo tante battaglie comuni da portare avanti, come la violenza contro le donne, che purtroppo il nostro paese vede nel quotidiano, anche nella cronaca italiana. Quando c'è stato questo dibattito quest'estate sul burkini, questo costume che copre interamente il corpo della donna, si è discusso di questo abbigliamento anche perché pone un dilemma nelle società occidentali. Chiede che la società abdichi o all'uno o all'altro valore fondamentale dell'Occidente, il femminismo o la libertà di esprimersi come si vuole. Nel caso in cui si consenta l'uso del burkini, si abdica al femminismo, all'emancipazione femminile anche nell'abbigliamento. Nel caso in cui si obblighi a toglierselo, come hanno fatto in Francia, si abdica un pochino alla libertà di espressione. Lei crede che la presenza di stranieri in Italia, di musulmani e di arabi, in qualche maniera metta in crisi i valori dell'Occidente? Assolutamente no, anche perché quella che è stata la discussione, che insomma il dibattito estivo, non solo nel nostro paese ma anche in Francia, è stato alquanto ridicolo, proprio perché il primo momento in cui si è parlato di burkini è stato quest'estate, quando in realtà lo si usava da tanto tempo prima, e chissà come non si è mai parlato di questo, anche perché in realtà è deviante anche parlare di burkini, perché in qualche modo dal nome ci si ricollega al burka, che non ha niente a che fare con questo costume. È un costume semplicemente integrale, che permette alle donne musulmane e non, perché ci sono anche tante altre donne che magari non vogliono abbronzarsi o hanno problemi di pelle, per cui appunto vanno coperte al mare. Vedere un problema o in qualche modo un allarme in un vestito mi sembra alquanto assurdo. Piace anche citare la nostra premio Nobel Rita Levi-Montalcini, che diceva: le donne non hanno bisogno di mostrare nulla se non la propria intelligenza, e io credo che calzi a pennello, proprio perché diciamo questo modo di vedere il corpo delle donne come uno strumento su cui dibattere, su cui tutti hanno il diritto di dibattere, mi sembra assurdo. È assurdo sia quando si impone alla donna di coprirsi, è assurdo tanto quanto gli si impone di scoprirsi. Quindi quindi si va a ledere in realtà quelli che sono i nostri valori fondamentali della libertà, dell'espressione, soprattutto della libertà della donna di poter fare ciò che più vuole del proprio corpo, e non che ci sia qualcuno che debba imporre un modo di vestire o un modo di essere nella società. La presenza dei musulmani, che non sono solo arabi, ma i musulmani sono di tutte le culture. In realtà in Italia abbiamo anche tanti italiani autoctoni ritornati all'Islam, assolutamente non inficia alcun diritto fondamentale, anzi semplicemente va ad arricchire il nostro modo di vedere le cose, soprattutto arricchisce quello che è il dibattito per cercare di veramente avere un'eguaglianza sostanziale, ma anche un diritto e una libertà che possa essere sostanziale e non solo formale e soprattutto scritta sulle carte. Lei ha dedicato il libro a Valeria Solesin e Giulio Regeni. Sì, ho voluto dedicare loro il libro perché credo che sono due giovani che sono un esempio soprattutto per noi giovani. In qualche modo loro stavano perseguendo quelli che erano i propri sogni, le proprie ambizioni, stavano studiando all'estero, stavano portando avanti le loro attività in maniera straordinaria, portando anche in alto e onorando la nostra bandiera, il nostro paese. E il fatto che abbiano purtroppo siano stati ammazzati in quel modo così crudele, così disumano, mi è sembrato corretto appunto ricordarli a tutti noi giovani, soprattutto per avere sempre il coraggio di portare avanti le proprie idee, le proprie ambizioni, senza fermarsi mai di fronte a quello che può essere il dolore che proviene da questi fatti. E credo che le parole soprattutto dei genitori di Valeria e poi anche di Giulio siano stati un grande esempio per noi giovani, soprattutto di non covare rabbia e odio nei confronti del prossimo, ma cercare di perseguire quelli che poi sono i nostri valori fondamentali e quelli che poi sono scritti nella nostra straordinaria Costituzione. Com'è stato crescere in provincia di Mantova da persona di origini straniere? Ci sono state delle difficoltà che lei ha subito sulla sua pelle? Sì. I primi anni sono stati straordinari. Ricordo alle elementari o alle medie veramente degli anni meravigliosi dove ho avuto l'incontro con sia compagni e compagne di classe, sia professori e maestre che in qualche modo mi hanno aiutata in questo percorso in maniera straordinaria. Quello che forse mi è è stato un po' più difficile è stato gli anni delle superiori, in particolar modo al primo anno, quando non solo c'era la difficoltà di essere in un mondo nuovo quale quello delle superiori, ma anche l'avere degli ostacoli, soprattutto per quella che era la mia fede, quindi non solo per l'origine differente, ma quella che era soprattutto la fede, in quanto avevo già scelto di indossare il velo, e questo sicuramente mi ha portato degli avvenimenti non tanto. Ci fa degli esempi? Il primo anno appunto c'era questa professoressa di matematica che quando mi aveva visto addosso la felpa, che allora andava molto di moda la felpa color militare, mi disse: attenta a non farti esplodere, mi raccomando. Cioè l'ha trattata come una kamikaze, una potenziale kamikaze? Sì, più che altro forse sarà stata una battuta, non lo so, ma quando si ha 14 anni arrivano delle battute simili, non è facile digerirle con il tempo. Quindi quasi più dai professori che dagli altri compagni?